Amuse-toi.

digat, am mai remma marinaro como digat, al come modo lado, le mi sono schietto rocket, me digat la mirvirulla como digat. Nan gar da la crovado come di gat, nan gar da la crovado come di gat, tu me perde la magano le mi stronchetto rocche me di gat la virvirulla come di gat. Trovo un pastore della montagna come di gat, trovo un pastore della montagna come di gat, gar da musa trovelar le mi stronchetto rocche me di gat la virvirulla come di gat. Pastore della montagna come di gat, se la trovate in vostra erbage come di gat, se la trovate in vostra erbage come di gat, vuol donare motore di ale, le mi sfrocchetto rocche mi di gat, la virvirulla come di gat. Riveraglio del buon fromage come di gat, riveraglio del buon fromage come di gat, che non fa vostri cuore di ale, le mi sfrocchetto rocche mi di gat, la virvirulla come di gat. La la! Woo! par là. Gidolai meninos, le pole meli, flainulai bacinos,